Coming Song, terza puntata, siamo arrivati alla terza puntata qui su Radio Wombat. Buonasera. Buonasera, siamo al 20 di novembre, sono le 20.03, diventiamo sempre più puntuali. Non è il 21 oggi? Ah sì? Mi sembra, no? Sì, ma allora sì, probabilmente hai ragione, però sono sicura che sono le 20.03. Sì, siamo abbastanza puntuali. E questa è la seconda parte di questa puntata dedicata a cinema e radio. Radio. Continuiamo a parlare di radio. Ci siamo lasciati l'ultima volta con dei film americani, Radio Days, Good Morning Vietnam. Io non c'ero l'altra volta, ma anche quest'oggi siamo orfani del terzo componente del gruppo di Mr. Orange, e abbiamo una biondissima Mr. Blonde che è tornata. Buonasera a tutti e tutte. Buonasera, e partiamo. Parto io? Sì, ci ricolleghiamo all'ultima puntata che abbiamo parlato, anche abbiamo accennato a questa radio indipendente che diciamo ha dato il via, questa radio pirata ha dato il via diciamo a tutta una serie di trasmissioni e ha fatto conoscere diciamo la musica rock nel mondo. Nel mondo intero. Quindi iniziamo con un film che in italiano è uscito come I Love Radio Rock, quando il titolo originale, come spesso accade, era estremamente meglio. Infatti era The Boat That Rocked, un film del 2009 di Richard Curtis che racconta di una radio pirata, ispirandosi fortemente alla prima radio pirata per eccellenza nella storia delle radio pirata che dopo di allora si sono succedute nei tempi, esempio neanche quello che stiamo facendo noi adesso fondamentalmente. Siamo un nipote. Si parla di Radio Caroline, quindi una radio pirata in inglese, nata nel 1964, la prima in assoluto, che in un panorama dell'epoca in cui il tempo dedicato alla musica era molto molto risicato nelle trasmissioni che andavano in onda settimanalmente e non lasciavano ampio spazio alla musica leggera e al fenomeno che si stava diffondendo all'epoca, ovvero il rock and roll, la Radio Caroline trovò il modo di aggirare i regolamenti, le leggi dell'epoca, sfruttando la zona franca delle acque internazionali. Quindi un bel giorno un geniale signore, di cui ora vi dirò il titolo, il nome che mi sfugge, compra una barca, se ne va in mare aperto e comincia a trasmettere fondamentalmente pezzi di gran rock and roll, con il beneplacito delle band che vedevano la loro musica ascoltata strenuamente da tutti gli ascoltatori che poi andavano anche a comprare i loro dischi. Questo fenomeno delle radio pirata, che dopo Radio Caroline sono spuntate dappertutto e ribaltando il concetto tradizionale della radio che vigeva all'epoca, favorisce la diffusione del fenomeno musicale nel mondo intero. Ed è proprio grazie al fenomeno delle radio pirate che nascono gli anni della British Invasion dal 64-67, fino ad allora erano gli Stati Uniti ad avere la maggiore influenza e il predominio sul panorama musicale. La radio continua, osteggiata dalle varie leggi, a trasmettere anche dopo il 1967, in cui il governo vara una legge che punisce severamente le radio pirata. Questa barca rimane in mare, unica perché tutte le altre smettono di trasmettere, raggiungendo 20 milioni di ascoltatori, record assoluto. Ultimamente questa radio, che ha continuato a trasmettere per decenni, che esiste ancora, ha anche la licenza di trasmettere. Questo film quindi si ispira alla storia reale di Radio Caroline, ed è un film che si può considerare un manifesto d'amore del rock and roll intero. E infatti si apre con un pezzo di una band che conosciamo tutti, che non ha bisogno di grandi presentazioni, un pezzo che comincerei regia a preparare. Ascoltiamo The Kinks con All Day and All of Night. Buon ascolto. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Questi erano i Kinks. Prima non mi veniva in mente il nome del fondatore di Radio Caroline, era Ronan O'Reilly. Scusatemi, dovevo ricordarmelo, ma la vecchiaia avanza, fa freddo. Vabbè, abbiamo puntualizzato. Radio Caroline trasmette tuttora sul web, abbiamo detto, ha continuato a trasmettere sulla nave Caroline fino al 1991. Facciamo sentire un altro pezzo di questa colonna sonora, sì, ben fornita. Facciamo sentire proprio un estratto dal film con il conto alla rovescia della prima, diciamo, la prima messa in onda di Radio Caroline. Ma che introduce poi un altro gran pezzo. Un altro brano che lo scoprirete a breve. Vi diamo un suggerimento, sono inglesi anche loro. The end is nigh. We bid you farewell. With dignity and pride. We thought we'd never die. But, well, you can't fight City Hall. And so, take care. Be good. Listen to the music. It's a good thing to do. It's the count. Counting down and out for the count at last. three, two, one. And the rest is silence. Thank you, Donnie. Thank you, Donnie. Well done to it. Thank you, sir. Agree. Her Majesty's Government. Only kidding, dude! Let's rock! Ah, finiva così, eh? E dai, questa allora era... lo rimettiamo, era Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. No, aveva ascoltato tutto, regia. Mr. Pink, lo rimettiamo? Rimettiamolo, così ce l'ascoltiamo per bene. Che vale la pena. Bye. ovviamente il brano di prima non era Jumping Jack Flash. Sono affetta da una strana sindrome questa sera che si chiama confusione, per cui ho confuso i due pezzi che però erano entrambi dei Rolling Stones. Questo era Jumping Jack Flash, quello che avete appena ascoltato, che fa sempre parte della colonna musica di questo film ed è sempre un gran pezzo. Allora, continuiamo, andiamo avanti, continuiamo a parlare di cinema e di radio e quindi di musica. Con quale film andiamo avanti? Volevo intanto, proprio per la panoramica sul rock and roll, perché questa sarà una puntata che oltre che parlare di radio e cinema e naturalmente di musica, va a celebrare proprio la musica che in quegli anni spopolava, cambiando la visione e le visioni del pubblico che ascoltava, che è il rock and roll, che si divideva tra Inghilterra e Stati Uniti, con riproduzioni chiaramente anche in altri paesi, anche se lo zoccolo duro veniva dai paesi anglofoni. E volevo farvi sentire un pezzo dei Turtles, Eleanor. Mettiamo regia? Sì. Enjoy su Radio Wombat. Buon ascolto. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you ever near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Eleanor, gee, I think you're swell, and you really do me well. You're my pride and joy, etc. Eleanor, can I take the time to ask you to speak? Think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you. Abbiamo ascoltato Eleanor dei Turtles, tratto dalla colonna musica, come direbbe Mr. Orange, di I Love Radio Rock, titolo italiano di The Boat That Rocked, del 2006. Adesso andiamo avanti, perché torneremo su rock and roll più tardi nel corso di questa puntata. Ma facciamo un excursus su un gran film di un grande regista del 2006, conosciuto in Italia come Radio America. Come sempre, agli italiani piace cambiare il titolo dei film, perché il titolo originale di questo era A Prairie Home Companion, e di Robert Altman, ultimo film di Altman, che muore nello stesso anno di uscita del film, quindi nel 2006. Questo film riprende la narrazione corale a più voci, che già si era vista in Nashville di Altman, a Prairie Home Companion è una reale trasmissione radiofonica settimanale creata nel 1974 da Garrison Keillor, che fa parte proprio del cast del film, che l'ha condotta fino al 2016. Una trasmissione che diventa la protagonista del film, che trasmette dal teatro Fitzgerald a St. Paul in Minnesota. Il film, che abbiamo già detto è corale, racconta dello show che è esistito e esiste realmente, dei suoi risvolti dietro le quinte, e vanta la presenza di un cast di attori decisamente importante, tra cui Marilyn Streep, Kevin Klein, Woody Harrelson, Lily Tomlin, moltissimi nomi conosciuti, che creano una colonna sonora originale del film, tra cover di brani già noti che fanno parte della scena blues country degli Stati Uniti d'America, e che anche vengono scritti appositamente per quest'opera. Il brano che ho scelto per introdurvi a questo film da ascoltare adesso è un brano che fa parte della colonna sonora originale, non è una cover di altri brani, ed è cantato, interpretato, diventando proprio colonna sonora a tutti gli effetti, da Marilyn Streep e Lily Tomlin, che sono tra le attrici protagoniste del film. Il brano si chiama My Minnesota Home e buon ascolto. Way down upon that old Mississippi River, not so far away, that's where my folks have lived forever, and that's where I'm going to stay. Searching across the whole creation, half my life and more. But I found my own sweet satisfaction right here on that muddy river shore. All the world, it is so sad and dreary. I can see my mama's sweet, sweet face every Sunday morning. All the good old hymns, praise God, that we've sung. We knelt in prayer right beside our precious aunts and uncles who loved us when we were young. In the valley of darkness, they are the shepherds who lead me to pastures green. And I'll sit with my mama by the still, still waters, and goodness and mercy follow me. I floated down the Columbia and the Hudson, walked on the banks of the Ohio, on the banks of the Wabash and the mighty Colorado, and the old Red River way up north. All the world, it is a world of rivers flowing to the sea. But here on that old Mississippi, here is the home for you. And Questo era My Minnesota Home, tratto da Radio America. È interessante pensare come un attore che possa definirsi davvero tale, sia un artista a tutto tondo, perché mi è strano pensare che un'attrice del calibro di Meryl Streep si possa inventare così cantando. È fico. Sì, Hollywood riesce a fare anche questo. The show must go home. Yeah. E restiamo sempre negli Stati Uniti, che questo film e non ha come protagonista la radio come gli altri citati, però questa radio, questa voce, come in American Graffiti, fa un po' da leitmotiv del film. E questa speaker che parla, racconta le vicende di queste gang che si muovono per New York. Il film è Warriors, i guerrieri della notte, di Walter Hill, del 1979, e lei con questa voce accompagna musicalmente e narra le vicende di queste band, di queste gang di New York. Come tutti sapranno, la storia del film è ambientata praticamente in una notte a New York nel luglio del 1979, quando viene proclamata una tregua tra tutte queste band giovanili che controllano i quartieri della città. È un film cult, e come cult è proprio l'inquadratura di questa speaker di New York, dove nel film vediamo inquadrato praticamente solo la bocca e il microfono, e la bocca di sexy, sì, molto molto sexy. E anche molto particolare, perché comunque non vediamo mai il viso completo. Ma la radio dà anche quello di bello, puoi lasciare ampio spazio all'immaginazione. Verissimo. E da questo film citiamo solo un brano, che è Now Her to Run, di Arnold McCaller, tratto proprio dalla colonna sonora originale del film, dove sentirete anche questa voce suadente della speaker di The Warriors, i guerrieri della notte. All right now, for all you boppers out there in the big city, all you street people with an ear for the action, I've been asked to relay a request from the Gramercy Riffs. It's a special for the Warriors. That's that real live bunch from Coney, and I do mean the Warriors. Here's a hit with them in mind. been good warriors all the way back to Coney. You hear me, babies? Good. Real good. Adios. E questi erano i Guerrieri della Notte, o meglio un brano tratto dal film, dalla colonna musica di dei Guerrieri della Notte. E lasciamo da parte questa parte, diciamo, americana di musica e radio, e andiamo in Italia. E andiamo in Italia perché anche in Italia l'Italia è stata una protagonista delle radio libere degli anni 70. E partiamo precisamente dalla Sicilia con il film I 100 passi. I 100 passi di Marco Tullio Giordano, un film del 2000, che racconta la storia di Peppino Impastato e di Radio Out, che era, diciamo, un cofondatore insieme al fratello e agli amici, ai compagni siciliani e di questa radio. La storia tragica dei 100 passi si conclude purtroppo con la morte in un attentato mafioso di Peppino Impastato, appunto. Un attentato riuscito. Sì. E diciamo, questo si chiama così I 100 passi perché praticamente era la distanza che in questo paesino di Cinisi, sono perso sull'accento, erano comunque i 100 passi che colmavano la distanza tra la casa di Impastato e quella del boss mafioso Gaetano, detto Tano Badalamenti. E Peppino Impastato si era schierato contro la mafia, ma contro, diciamo, tutte le istituzioni e tutte quelle lo scenario che la lascia fare. Ce l'ho il microfono, regia? Sì, senti. E quindi contro la famiglia, contro tutte queste istituzioni che si erano, diciamo, che erano queste tradizioni che erano diffuse nell'Italia di quegli anni e di ora. La battaglia di Peppino Impastato continua ancora adesso, dopo decenni dalla morte. Sì, purtroppo diciamo, è cambiato poco. E appunto viene nel 1978, viene ucciso in questo attentato durante la campagna elettorale, perché lui si era candidato con Democrazia Proletaria, mi sembra, e prima che finisse la campagna elettorale viene ucciso. Io da questo film vi farei sentire il discorso radio di Peppino Impastato tratto dal film, e poi, per non prendercela proprio malissimo, perché siamo un po' tragici, faremo sentire anche dei pezzi più propositivi della nascita di questa radio, proprio quasi uno scantinato. E partirei appunto con il discorso, uno degli speech più famosi di Impastato, tratto dal film, appunto, I 100 passi. Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui, per abbandonare la politica e la vita, che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo peppino impastato. Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura. Perché ci dà sicurezza. Perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un lutto mescato con niente. E questo ovviamente non era il discorso di Peppino Impastato, era il, diciamo, l'addio fatto alla radio per quello che era avvenuto. E a questo punto, se ce la faccio, perché stasera no, mi sembra che non vada niente come dovrebbe andare. No, abbiamo l'universo che ci osteggia. Sì, mettiamo appunto lo speech di Peppino Impastato tratto dal film. Radio Out si è aperta, ha accolto opinioni diverse, si è fatto strumento di diffusione di un codice di comportamento libertario, pseudo-libertario. Certo è affascinante dire riprendiamoci il nostro corpo, viviamo liberamente la nostra sessualità, chi non è d'accordo? I compagni di Milano poi sono simpaticissimi, anche i creativi venuti da Bologna, i fricchettoni piovuti giù dall'India. Queste ragazze tedesche, inglesi, sono bellissime. Viene voglia di piantare tutto, andare via dietro a loro. Ma qui non siamo a Parigi, non siamo a Berkeley, non siamo a Woodstock, nemmeno all'isola di White. Qui siamo a Cinisi, in Sicilia, dove non aspettano altro che il nostro disimpegno, il rientro nella vita privata. Per questo ho voluto occupare simbolicamente la radio, per richiamare la vostra attenzione. Ma non voglio fare tutto da solo, bisogna che ognuno di noi ritorni al lavoro che ha sempre fatto, cioè informare, dire la verità. E la verità bisogna dirla anche sulle proprie insufficienze, sui propri limiti. E adesso basta con queste lagne. Mettiamo su un po' di buona musica, anzi, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza ad ascoltarmi. Ah, sei tu. Chi dovevo essere? Per un momento ho pensato. Cosa hai pensato? No, niente. Dimmi. Sono stato qui sotto ad ascoltare la trasmissione. Ho pensato che. Su molte cose hai ragione. Però non puoi fare di testa tua. Perché. Non puoi occupare la radio. Perché non è tua. Non è solo tua. Se vuoi farti sentire, certe volte devi fare la voce grossa. Invece no. No, perché se fai la voce grossa, fai capire che stai male. Non ti fai ascoltare. Non ti fai sentire. Ecco, bene, vedi, a scaricare i brani da YouTube succede questo. Sì, era poi il pezzo bellissimo anche cult del panorama musicale di quei decenni che hanno fatto la storia del movimento studentesco e di una presa di coscienza politica che si espandeva nel mondo intero. Erano i Proculorum con A Wado Shade of Pale, che diciamo, Pale. Gli ascoltatori più attenti di Radio Wombat avranno riconosciuto, perché è stata una protagonista di una vecchia trasmissione che era Il rovescio della medaglia, nonché super citato come pezzo in moltissimi film. Mi viene in mente il grande freddo, che anche si ricollega a una colonna sonora tutta impostata su quegli anni musicali. Sì, diciamo che questo brano ha segnato, diciamo, almeno un decennio di cinematografia a livello mondiale. Comunque è stato ripreso anche da molti artisti italiani, sono state fatte diverse cover sia in Italia che all'estero. Sì, hanno fatto questi esperimenti terribili sì, con la musica e allora nelle versioni italiane. Abbastanza terribili, sì. E quindi andiamo avanti con, diciamo, un po' di propositività, sempre dal film 100 passi. Un brano proprio tratto dal film, della colonna sonora della nascita di Radio Out. Rigantoni, Sante Johnny, il guardiano del faro, ma che ci smettevano canzonissima? Ah, che ci sono di schiavacche? Ma voi già capite a fare con tutti questi cose? Come che ci dobbiamo fare? Una radio, no? Qual è la mia provincia? Sì, è le Isole Eole, ma una marrovara a queste ferrovie. E che ci vuole? Oggigiorno basta un registratore, un antenino per fare c'è la radio. Ce ne saranno già mille in tutta Italia. A me basta che ci sentono a cinisi. Sì, quando c'è via. Sa del mio cuore ciò che è stato sempre. prima di ogni altro amore. Misery in the house of the rising sun. Questo era The House of the Rising Sun degli Animals, tratto dai 100 passi di Marco Tullio Giordana. E bene, andiamo avanti con le radio libere, andiamo avanti con la situazione italiana degli anni 70. E quello che vi proponiamo ora è un film del 2004 diretto da Guido Chiesa, che si chiama Lavorare con lentezza, che narra le vicende e la nascita intorno alla Bologna, appunto, degli anni 70 e intorno a Radio Alice, la famosissima radio bolognese. E, si parla del 1976, mi sembra. 75. Concepita nel 75. Trasmetteva da una soffitta di via del Pratello 41 a Bologna, nel centro di Bologna, e ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ha iniziato a trasmettere, concepita nel 75, ha iniziato a trasmettere il 9 febbraio del 1976. E appunto il film, abbiamo detto, di Guido Chiesa, è stato sceneggiato appunto dal regista insieme al collettivo Wuming e interpretato da Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea e tra i, diciamo, i famosi Jacopo Bonvicini, che sarebbe il fumettista Bonvi, e gli After Hours, che fanno, diciamo, un cameo, che interpretano gli Area, la band degli Area, nel concerto, in un live a Bologna. Ed è il brano che hai scelto? È proprio il brano che ho scelto e ve lo faccio sentire subito. Sono appunto gli After Hours. Il brano si chiama Gioia e Rivoluzione degli Area. E questa è un'interpretazione live, non molto fedele, per fortuna, sottolineo, non fedele al pezzo originale, ma comunque una buona interpretazione. Se ti sentissero gli Area. Sì. E in questo momento non trovo questo brano, eccolo qua, e Gioia e Rivoluzione su Radio Wombat. Qui Radio Alice, lunedì 9 febbraio 1976. Il mio il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade per la gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Canto per te che mi vieni a sentire. Suona per te che non mi vuoi capire. Rido per te che non sai sognare. Suona per te che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è la luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio petro è il contropasso che mi spara sulla faccia. E mi spara sulla faccia ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Questa era l'interpretazione degli After Hours di, degli Area di Gioia e Rivoluzione. Il film, come purtroppo la storia di Radio Alice, si conclude con la tragica morte di un militante del movimento bolognese, Francesco Lo Russo, ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere l'11 marzo del 1977. E con il pretesto, diciamo, degli scontri e del... Hanno accusato i ragazzi e le ragazze della radio di avere fomentato in diretta radiofonica i violenti scontri che sono succeduti alla morte di Lo Russo. Accusa rivelatasi poi totalmente infondata, in quanto... E la radio si proponeva di informare in diretta riguardo quello che stava succedendo in città. E quindi, come, diciamo, come spesso succede, purtroppo, quindi, l'intera storia è stata strumentalizzata e quindi... la radio sono stati distrutti gli impianti di trasmissione, sono stati arrestati tutti quanti presenti in radio, salvo poi essere rilasciati successivamente. Il colpevole dell'uccisione di Francesco Lo Russo, il caso è stato archiviato, non c'è un colpevole. Ovviamente. E quindi a questo proposito vi facciamo ascoltare, comunque anche dal film, comunque proprio il discorso durante la chiusura di Radio Alice. E questo è preso proprio anche dal film, è presente una parte anche nel film, ma è preso proprio dalle trasmissioni, dalle vecchie trasmissioni radio. Dunque la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a urlare di aprire. Stai attento, stai giù. Tanto i mandi gli avvocati, aspettate 5 minuti, sono qui per strada. Gli unici commenti sono la pite e cose di questo genere. Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... Eh? C'è No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta. Sono entrati. Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate. Ecco, sta parlando, sta parlando il microfono. Abbiamo le mani in alto. E questo era il, diciamo, il tragico epilogo della storia di questa radio bolognese del 1976 di Radio Alice. Il film molto interessante anche dal punto di vista, diciamo, di ricostruzione storica, anche per appunto la colonna sonora. E tra, appunto, come citato, Gioia e Rivoluzione, Frank Zappa con Peaches in Regalia, Tim Buckley, Patti Smith, c'è anche Rino Gaetano con Mio fratello e figlio unico, e il titolo del film, Lavorare con lentezza, prende il nome appunto da un brano di Enzo Del Re, che era il brano che introduceva, apriva e chiudeva le trasmissioni di Radio Alice. Per lasciarvi, facciamo sentire un brano di Rino Gaetano, appunto, mio fratello è figlio unico. Rino Gaetano qui su Radio Wombat. Trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, represso, calpestato, odiato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, frustrato, deluppato, sottomesso. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo, Mario. Grande Rino, sempre eterno, mi ha galvanizzato sentire questa canzone. Speriamo di recuperare tutte le gaffe fatte nel corso di questa puntata. Se sei in ascolto, Mr. Orange, perdonaci. Abbiamo parlato quindi di lavorare con lentezza, che ha riproposto le vicende di Radio Alice. Lavorare con lentezza, volevo, perché è una canzone che non ho mai ascoltato effettivamente, però è interessante, ho ritrovato questo pezzettino. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Da ascoltare, interessante. Rimaniamo sul panorama italiano. E purtroppo e purtroppo vi parlo di un film di cui non avrei mai creduto di potervi parlare, però come giusto appunto ci ha suggerito poc'anzi Rino, mio fratello è figlio unico, perché non ha mai guardato un film, non ha mai giudicato un film prima di vederlo. E vi parlo quindi di Radio Freccia, che non giudico perché non ho ancora visto, ma è un film che è stato giudicato straordinariamente bene dalla critica, ha vinto un monte di premi, 3 David di Donatello, 2 nastri d'argento, contro ogni previsione. Un film che vede niente po' di meno che Ligabue come esordio alla regia. Io ho un po' un'avversione per Ligabue, quindi questo film non l'ho visto, ma di lo sicuro vedrò. Sempre meglio che come cantante e musicista. Però questo esordio alla regia ha funzionato, perché è un film che è stato molto apprezzato. L'ho scelto comunque per la sua colonna sonora, che ha una colonna sonora originale fatta da Ligabue, ma anche contempla numerosi pezzi del panorama rock di quegli anni, parliamo sempre degli anni 70. E in panorama rock, come vi avevamo promesso, continuiamo a riproporvi dei pezzi storici dell'epoca. Questo è un film del 1998 che trae la sua storia dal un libro di Ligabue uscito nello stesso anno, che narra in vari racconti, si chiama Fuori e dentro il borgo, e narra di vari racconti della vita nella provincia, in particolare ambientati a Correggio, luogo in cui Ligabue è nato e cresciuto, in provincia di Reggio Emilia. Tra gli interpreti della colonna sonora c'è anche Francesco Guccini, che tra l'altro ha anche un ruolo nel film stesso, e un suo pezzo Incontro fa parte della colonna musica del film. Io ho scelto per come pezzo della colonna musica un brano importantissimo del panorama musicale degli anni 70, Vicious di Lou Reed, dall'album Transformer, uscito nel 1973, prodotto tra gli altri da niente poco di meno che David Bowie. Buon ascolto. We'll be right back. questa era Beaches. E siamo alla fine di questa terza puntata di Coming Song su Radio Wombat. In questo freddo fredda serata di novembre. Anche se non trasmettiamo dall'aperto, vi assicuro che è abbastanza freddo qui nella nostra regia. Ci si congelano le menti. Sì, apposta siamo un po' rallentati stasera. Abbiamo ascoltato Vicious, quindi, che volevo raccontare una curiosità. Pare sia stato proprio Lou Reed abbia scritto questa canzone dopo che Andy Warhol un giorno è sbocciato chiedendogli: ma perché non fai una canzone che si chiama Vicious? Vicious come? Vicious significa, per chi non lo sapesse, vizioso, perfido, cattivo. Vizioso come? Come un fiore. E Lou Reed, parola per parola, l'ha riportata proprio nel testo della canzone. Ora, volevamo salutarvi con un altro brano storico che non ha bisogno di molte presentazioni, ma che già nel titolo porta il nome di quella ribellione che ha portato poi la musica rock in quegli anni, insieme ribellione nel concepita come rivoluzione proprio culturale, come presa di coscienza, come parliamone, quello che ha voluto rappresentare la radio e tutte le radio libere che si sono succedute negli anni. Vi volevamo salutare, quindi presenti tu il brano Mr. Pink. Siamo alla conclusione, vi lasciamo con David Bowie con Rebel Rebel. E noi ci vediamo tra 15 giorni qui su Radio Wombat, e vi ricordo che potete ascoltare il podcast di questa trasmissione e di tutte le altre del nostro Wombat Palinsesto dal sito wombat.noblogs.org. Buon ascolto. Buon ascolto. I love you.